Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici. Dopo aver riassaporato i primi giorni di parziale libertà, vi voglio proporre due temi che sono rimasti sullo sfondo delle nostre riflessioni in queste ultime settimane: quello della politica e quello della tecnologia. Per politica non intendo naturalmente le diatribe fra i partiti, ma mi riferisco a quelle questioni che ci hanno colpito da vicino e che hanno a che fare con la libertà, appunto, e col funzionamento della democrazia. Ci siamo chiesti più volte in questi giorni e se e in che limiti sia possibile condizionare la nostra libertà e chi deve prendere queste decisioni, se c'è un controllo che deve essere esercitato nei confronti del potere. I famigerati DPCM, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono stati uno strumento da alcuni considerati eccessivamente restrittivi e si è chiesto che se ne occupasse di queste grandi questioni anche il Parlamento, quindi ripristinando quello che è il valore della rappresentanza parlamentare. Quindi i temi della politica che ci hanno fatto magari inconsapevolmente riflettere in queste settimane sono state appunto quelle relative alle condizioni, alla pratica della democrazia, su una scala che non è stata soltanto una scala nazionale. Italiana, per esempio, ci siamo chiesti in queste ultime settimane se davvero il coronavirus provveda a rafforzare le dittature e i regimi autoritari, e ci ha fatto chiedere se cambia appunto l'esercizio della libertà e dei diritti umani, se cambieranno i rapporti a livello internazionale, quali saranno le nuove aree di conflitto tra le grandi potenze. Allora partiamo proprio da questo tema con alcuni libri pre-coronavirus, perché quest'ultimo ha soltanto accelerato, aggravato, ingigantito problemi di cui si discuteva già da anni, riconducibili in sostanza alla questione dello stato di salute della democrazia liberale. Primo tema, la libertà, di cui ci parla il libro di un noto studioso americano, Cass Sunstein, sulla libertà, tradotto da Francesca Pepe, Einaudi, 96 pagine, 12 euro. Sunstein è un giurista ed economista, uno dei padri dell'economia comportamentale. Dopo aver svolto un ruolo importante nell'amministrazione Obama, attualmente insegna ad Harvard. Questo che vi propongo non è certo un mattone, per usare il mio linguaggio, è un lungo saggio, molto denso, ma tutt'altro che iniziatico. L'economia comportamentale, il cui maggiore esponente Richard Thaler ha vinto il premio Nobel per l'economia 3 anni fa, e proprio di Thaler Sunstein è stato un collaboratore, ribalta l'idea che il consumatore sia un decisore razionale, perché in realtà questi è sempre condizionato da errori, ignoranza, pregiudizi, e dunque ha bisogno di spinte gentili, come le chiamano appunto questi economisti, che lo indirizzino verso le scelte più adatte. Sunstein, qui in questo libro, cerca di rispondere alla domanda se la spinta gentile, per esempio non vietare la vendita di sigarette, ma scrivere sul pacchetto, come avviene oggi, dei messaggi terrificanti per cercare di far smettere di fumare, se un tipo di spinta gentile come questo non sia anch'essa una prevaricazione. Chi decide infatti quale sia la scelta più adatta che l'individuo deve assumere? E l'autore affronta il rischio della manipolazione della libertà, cita Orwell e Hayek, difende le condizioni perché non prevalga appunto questo condizionamento. Solo la democrazia liberale, conclude, assicura le condizioni perché alla fine sia l'individuo a decidere liberamente se gli garba anche di fumare. E queste righe lo sintetizzano efficacemente. Credo che tutti siano d'accordo sul fatto che le spinte gentili del governo, come altri interventi ufficiali, vadano regolati sulla base di requisiti democratici, quali trasparenza, dibattito pubblico e monitoraggio esercitato da organismi indipendenti, compresa una valutazione continua del loro funzionamento pratico. Le spinte gentili devono rispettare anche i diritti individuali. Limitazioni di questo tipo possono ridurre i rischi, senza tuttavia eliminarli. Il punto fondamentale è che i rischi sono molto più gravi se si usano altri strumenti, soprattutto obblighi e divieti. Come dicevo, il dibattito sullo stato della democrazia liberale è in corso da anni, dopo che la disaffezione per la politica e la sfiducia nei confronti delle classi dirigenti sono dilagate in tutto il mondo e hanno portato al diffondersi e al successo del populismo. Espressione di questo filone di analisi è il libro di uno studioso inglese, Colin Crouch, che ha insegnato a Warwick, Oxford e all'Istituto Universitario di Firenze e che torna su un tema che gli è caro con Combattere la postdemocrazia, tradotto da Marco Cupellaro per La Terza, 196 pagine, 18 euro. La postdemocrazia, ossia, per dirla con l'autore, la democrazia che si riduce all'ombra di se stessa, è un'espressione coniata dallo stesso Crouch, che qui ne evidenzia i rischi e soprattutto corregge gli errori di analisi che ammette anche lui di aver compiuto, per esempio sottovalutando proprio il rischio rappresentato dal populismo. La democrazia, secondo l'autore, non deve diventare post, deve rimanere salda grazie al funzionamento essenziale delle istituzioni che sorreggono il modello liberale della democrazia e deve difendersi col contributo che i movimenti come il femminismo o l'ambientalismo possono oggi assicurare alla democrazia stessa. E Crouch conferma la fiducia nella democrazia liberale, scrive infatti che le società con istituzioni relativamente democratiche ottengono risultati migliori rispetto a quelle non democratiche. Solo la democrazia può consentire l'esistenza di un'arena pubblica in cui sia possibile prendere in esame conoscenze contrastanti. Ammette che non si può avere democrazia senza un basso livello di disuguaglianza in mercati realmente concorrenziali e paradossalmente ritiene che l'arrivo sulla scena di movimenti populisti di vario genere può essere senz'altro un'occasione di rafforzamento della democrazia, ponendo all'ordine del giorno questioni fino a quel momento trascurate e offrendo ai partiti e alle élite tradizionali l'opportunità di mettersi in gioco. Tuttavia, aggiunge, se quei movimenti populisti non mutano rapidamente natura accettando i limiti istituzionali, la loro prolungata presenza può diventare un pericolo per la democrazia. È dunque essenziale che le chiamate alla mobilitazione contro il populismo non si riducano all'autocompiacimento post-democratico, alla difesa dei corrotti, alla presa in ostaggio plutocratica del governo e alla sopravvivenza di un sistema partitico che non rispecchia più adeguatamente le principali divisioni della società. Siano perciò benvenuti i barbari invasori, purché accettino di assoggettarsi a quei vincoli che salvaguardano il futuro della democrazia. Quindi la mobilitazione contro il populismo sì, a condizione di migliorare un pochino tutti. John Mersheimer, esperto di relazioni internazionali, docente all'Università di Chicago, affronta invece il tema della possibile esportazione del modello democratico liberale, tema oggi particolarmente attuale alla luce del fenomeno opposto, cioè del rafforzamento dei sistemi autoritari e illiberali in molte parti del mondo, a partire per esempio dalla Cina. Affronta questo tema nel libro La grande illusione, perché la democrazia liberale non può cambiare il mondo, è pubblicato da Lewis University Press, 328 pagine, 25 euro, ed è tradotto da Roberto Merlini. Mersheimer è un esponente della visione realista nelle relazioni internazionali e diffida profondamente delle strategie di esportare appunto la democrazia, soprattutto con le armi. Qualunque tentativo in questo senso, anche se condotto con le migliori intenzioni, ai suoi occhi si è rivelato un fallimento. L'autore non diffida affatto del modello, ma delle sue ambizioni, come spiega più volte nel libro, dove difende appunto la democrazia liberale. Lo fa per esempio in vari punti del libro con queste espressioni. Il liberalismo può essere veramente una forza al servizio del bene all'interno degli stati, ma non quando gli stati interagiscono con il mondo esterno. Sono convinto che la democrazia liberale sia la forma politica migliore. Non è perfetta, ma batte nettamente la concorrenza. Eppure, nella politica internazionale il liberalismo è fonte di guai infiniti. Le grandi potenze che perseguono l'egemonia liberale si ritrovano invariabilmente in serie ambasce, sia all'interno sia all'estero, e finiscono quasi sempre per danneggiare altri paesi, inclusi quelli che volevano aiutare. Il liberalismo ha tante virtù come sistema politico, ma quando si applica alle relazioni internazionali, le politiche che ne derivano non funzionano proprio. La democrazia liberale, insomma, è insostituibile a casa propria, ma non può essere imposta con la forza, secondo l'autore, per una ragione molto semplice e anche molto attuale, che fatalmente esso, il liberalismo, si deve scontrare col nazionalismo, che, secondo l'autore, resta la forza più potente di identità con la quale il liberalismo è destinato a perdere. E qui Mearsheimer ci dà un'analisi molto interessante su cosa siano liberalismo e nazionalismo e quali siano gli elementi, anzi le sei caratteristiche di base che fanno una nazione. Non è detto che le due forze confliggano necessariamente. Ciò avviene, scrive l'autore, quando in un paese multinazionale c'è una profonda ostilità tra i diversi gruppi. In questo caso il liberalismo mostra i suoi limiti rispetto al nazionalismo, più capace, scrive, di mettere a disposizione il collante che tiene insieme una società, mentre il liberalismo paga la debolezza di fondarsi sull'individualismo radicale e non sulla comunità e la responsabilità nei confronti della collettività. Tesi abbastanza provocatorie, come sentite, ma interessanti anche perché ci fanno capire le ragioni o alcune ragioni del successo del populismo. E non a caso Gideon Rachman sul Financial Times osservava proprio pochi giorni fa che uno degli effetti collaterali del coronavirus rischia proprio di essere la risorgenza del nazionalismo, perché in situazioni di crisi la gente si fida di più dello Stato-nazione, perché è stata messa in crisi la catena globale della produzione, perché l'epidemia ha ridato forza a fenomeni quali il protezionismo e il controllo delle frontiere. La democrazia liberale si basa sul principio della rappresentanza, oggi pesantemente rimesso in discussione a favore di forme più o meno fantasiose di democrazia diretta o digitale. Difende il modello della democrazia rappresentativa il giurista Francesco Pallante in Contro la democrazia diretta, pubblicato da Einaudi, 132 pagine, 12 euro. Pallante è appunto un giurista progressista, ha collaborato con Gustavo Zagrebelsky ai tempi del referendum costituzionale, e qui argomenta efficacemente contro le illusioni della democrazia diretta, in particolare contro le soluzioni digitali avanzate dal Movimento 5 Stelle con la piattaforma Rousseau, che l'autore analizza molto criticamente, e argomenta anche contro quelle che chiama le ingenuità della rete, che è dominata da un pugno di aziende private, e scrive che sfruttando in maniera incontrollabile i dati personali degli utenti realizza profitti inimmaginabili. Le conclusioni di Pallante sono quindi chiare, come spiegano queste righe. La democrazia diretta ci affascina perché promette di realizzare l'ideale dell'autogoverno. In realtà espone ciascun cittadino al rischio del dominio di una maggioranza avversa, maggioranza che, oltretutto, ha diritto di imporsi semplicemente in quanto tale, a prescindere da ogni considerazione sul merito delle questioni, secondo una logica di puro decisionismo. La democrazia della maggioranza, o democrazia maggioritaria, è una maschera sotto cui si cela il volto della dittatura della maggioranza, con la sua attitudine alla sopraffazione. Naturalmente Pallante non è per lo status quo e denuncia i limiti della condizione attuale della democrazia, come appunto faceva anche Colin Crouch. Per essere credibile, la democrazia, secondo Pallante, deve basarsi anche sulla libertà dal bisogno e dall'ignoranza, non solo sulla libertà delle procedure, deve costruire legami sociali, deve ridurre le diseguaglianze. Solo così si potrà realizzare un modello più partecipato, quale quello, aggiungo io, che cantava ai suoi tempi Giorgio Gaber. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. E con questo ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione. Senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Le notizie, la compagnia. La musica scelta da chi la ama, la conosce e la vive. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Un libro tira l'altro. Ritrovati con Salvatore Carruba. Come dicevo, Pallante affronta anche la questione della democrazia digitale e della gestione dei dati, una questione di grande attualità anche alla luce del dibattito che è in corso sul trattamento dei dati personali per verificare i contatti che ciascuno di noi avrà avuto con possibili portatori del contagio. E quello della democrazia digitale o liquida viene definita un'utopia da due intellettuali tedeschi, Julian Nieder-Rümelin, che è un filosofo, fisico, nonché ex ministro della cultura, e Nathalie Weidenfeld, un'americanista, che hanno scritto insieme Umanesimo digitale, un'etica per l'epoca dell'intelligenza artificiale, pubblicato da Franco Angeli, 190 pagine, 18 euro, tradotto da Giovanni Battista De Marta. Perché sia un'utopia, i due curatori dimostrano analiticamente, ricorrendo anche all'autorità di studiosi come Condorcet o, più di recente, quella del politologo americano Kenneth Harrow. E la conclusione va nella direzione di auspicare un arricchimento, come scrivono i due autori, dello spazio pubblico grazie all'inclusione del maggior numero possibile di cittadine e cittadini che, più che sostituire la democrazia, la rafforzino. Le chance al riguardo non sono mai state così favorevoli. In effetti, il libro di Rümelin e Weidenfeld è un libro fiducioso sul rapporto che stiamo costruendo con i robot e con l'intelligenza artificiale. I due autori ne considerano vari aspetti e ambiti di applicazione, di cui vogliono studiare gli aspetti culturali e filosofici, prendendo decisa posizione per un umanesimo digitale, appunto, che vada incontro agli esseri umani, come spiegano essi stessi, senza essere ostile alla tecnica. Questa forma di umanesimo si distingue dalle posizioni apocalittiche perché confida nella ragione propria degli esseri umani e dalle posizioni euforiche perché considera i limiti della tecnologia digitale. Una posizione, insomma, di cui c'è molto bisogno per difendersi appunto dalle previsioni più cupe, ma anche dalle illusioni più pericolose. Mentre risulta più preoccupato un libro sul rapporto tra democrazia e dimensione digitale, quello di Mauro Barberis, giurista all'Università di Genova, autore di Come Internet sta uccidendo la democrazia, pubblicato da Chiare Lettere, 216 pagine, 16. Il populismo, così forte in molti paesi, è il punto di partenza di questo libro, che cerca di riproporre delle soluzioni all'illusione che il populismo digitale, come scrive l'autore, sia la forma di democrazia più adatta all'ambiente vitale di Internet. E la cura per combattere questo virus, e questa parola viene usata quando ancora non circolava il coronavirus, è obbligata. Cioè, scrive l'autore, difendere le istituzioni contro maggioritarie non elette dal popolo. La democrazia non è mai stata il governo del popolo, semmai il controllo del popolo sul governo, e secondo, usare il populismo digitale come cura contro se stesso, ossia imparare a usare i social meglio dei populisti. Terzo, se il problema è Internet, allora regolamentare Internet. Barberis ci spiega cos'è il populismo, ce ne presenta tre versioni attraverso tre fenomeni importanti: la Brexit, le elezioni di Trump e la prima maggioranza populista con il governo Conte 1, con l'alleanza Movimento 5 Stelle Lega. Ne ricerca le spiegazioni e conclude appunto con le proposte, immaginando l'esigenza di trovare una formula che si adatti all'ambiente che stiamo costruendo, più tecnologico che umano. E per questo, aggiungo io, non innamoriamoci troppo del lavoro a distanza e non rassegniamoci alla perdita della socialità. E appunto, probabilmente il modello migliore, secondo Barberis, sarebbe un mix dei modelli disponibili, cioè il costituzionalismo, il neoliberismo e il populismo. Un fenomeno connesso, anzi costitutivo, della diffusione del populismo è quello rappresentato dalle fake news, che concorrono anch'esse a minare la democrazia. Di questo ci parla Christian Salmon, scrittore francese, nel libro Fake, come la politica mondiale ha divorato se stessa, pubblicato dalla Terza, 202 pagine, 19 euro, ed è tradotto da Luca Falaschi. Anche questo è un libro recente, ma ancora pre-virus, ma comunque attuale per il tema, che non è destinato certo a tramontare, anche perché abbiamo riscoperto proprio in queste settimane la gravità di certe bufale e l'impatto drammatico che queste possono avere sull'opinione pubblica. Come dicevo, Salmon non è un politologo, ma è uno scrittore, è stato assistente di Milan Kundera, fondatore del Parlamento Internazionale degli Scrittori, e la traduzione di questo libro ha un titolo furbo, Fake. In realtà il titolo originale suona L'ère du clash, perché è proprio il clash la parola centrale in questo libro, il clash intesa come rottura, come trauma, condizionata anche in politica più dai sismografi che dalla narrazione, scrive l'autore. Occorre sempre conquistare l'attenzione, questo è l'obiettivo dei politici in tutto il mondo, bisogna creare sempre nuovi shock e quindi si forma un nuovo impero dominato dai GAFAM, l'acronimo che sta per Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft, i titani del digitale, senza sudditi né poteri, che si è impadronito del nucleo dell'individuo. È un mondo nel quale, secondo l'autore, lo storytelling conta sempre meno, e qui Salmon cita due casi significativi, quello dell'elezione del presidente francese Emmanuel Macron e l'esperienza di Matteo Renzi, e scrive a questo proposito che Renzi fu il primo politico europeo a proclamarsi apertamente sostenitore dello storytelling. E quindi invece questo mondo è in corso di sostituzione, un mondo senza storia nel quale i politici assumono un'immagine che egli chiama patetica. E questa trasformazione è illustrata passando in rassegna varie esperienze politiche, non soltanto Renzi e Macron, ma anche Tsipras e Varoufakis, che l'autore considera un meme del fallimento politico determinato dal successo dei tecnocrati. L'unico storytelling che si afferma, insomma, è quello della sfiducia e del discredito, proprio perché, conclude l'autore, il clash sta al racconto come la guerriglia, la guerra convenzionale, è un'agonistica fondata sulla provocazione, la trasgressione, l'eccesso per speculare al ribasso sul discredito generale, aggravandone gli effetti. Questo tema della fine o delle crisi, delle narrazioni, dei fatti tradizionali si intreccia con un'altra parola diventata popolare, che è una sorta di variante delle fake news, post-verità. Titolo del libro di un ricercatore americano, studioso di etica da Harvard, Lee McIntyre. Il libro pubblicato da Utrecht, 356 pagine, 19 euro, ed è tradotto da Alessandro Lanni. E singolarmente premonitore è l'episodio che l'autore cita nella prefazione a questa edizione, dove ricorda di essere stato invitato un anno fa a parlare a Roma sui problemi legati all'epidemiologia e ai vaccini. Si sorprese non poco di questa richiesta fatta a lui, che appunto è uno studioso di etica, ma capì ben presto le ragioni di questo invito, perché quando si rese conto della dimensione del fenomeno del negazionismo in fatto di vaccini che si manifesta nel nostro paese. Scrive infatti l'autore: lo studio originale che pretendeva dimostrare un nesso causale tra il vaccino e l'autismo è stato confutato e ha dimostrato di fatto di essere una truffa. Tuttavia l'ignoranza, il cinismo, la disinformazione, la vera e propria propaganda che ne è scaturita hanno mantenuto viva la questione nell'immaginario pubblico anche successivamente alle prove fornite dagli scienziati. Eppure agitatori politici e altri agitatori ideologici hanno continuato a battere su questa ipotesi ormai screditata, e ciò ha provocato migliaia di casi di morbillo in tutto il mondo, Italia compresa. Il tema da allora si è fatto ancora più caldo e ha affascinato anche figure al di fuori della politica e della filosofia, per esempio Vasco Rossi. La verità arriva quando vuole, la verità. La verità non ha bisogno mai di scuse. La verità è fatale, la verità è che tutti possono sbagliare. La post-verità non è semplicemente la menzogna, è piuttosto, nell'interpretazione di chi la diffonde, l'altra faccia della storia, la versione alternativa. La capacità, scrive l'autore, di manipolare qualcuno per fargli credere qualcosa che sappiamo essere falso. Ma, conclude l'autore, nella sua forma più pura, la post-verità consiste nell'idea che la reazione della folla cambi davvero i fatti intorno a una bugia. E a questo punto il classico... Il mattone. Ho chiesto di indicarmi il suo mattone a James Bradburn, che è un museologo anglo-canadese ormai molto noto in Italia, di casa Milano, dove dirige la Pinacoteca di Brera. Naturalmente gli ho chiesto di introdurre un tema a lui congeniale ed ecco la risposta di Bradburn. Paradossalmente, in questi ultimi mesi, fermo a casa, non avevo tanto tempo di leggere. Fra un Zoom call, un teleconferenza Skype. Infatti, il tempo è più pieno adesso che prima. Però, ne uno dei rari momenti in cui io potevo sfogliare un libro, io ho trovato un libro magnifico che ho letto tanti anni fa. E questa è la biografia intellettuale di A.B. Warburg. È affascinante da due punti di vista. All'un lato è una biografia di uno dei più grandi storici dell'arte dell'Ottocento e Novecento. È una persona che ha rivoluzionato con il suo approccio agli studi dell'arte. Questa merita una grande attenzione in sé. Però la cosa che rende ancora più affascinante è scritto di uno dei più grandi storici dell'arte del Novecento, che è Ernst Gombrich. E Ernst Gombrich, che in tante maniere ha ereditato tutto il pensiero, la visione e l'impulso che ha dato A.B. Warburg, era la persona perfetta per interpretare e di approfondire il pensiero non facile, il tedesco non facile, la visione della risorgenza del paganismo nel Rinascimento non facile di A.B. Warburg. È un capolavoro perché parla di una persona che era infatti un genio, però un capolavoro anche d'analisi, di introspezione, di indagine e di riflessione personale della parte di uno dei grandi del nostro secolo. E il libro segnalato è quello di Ernst Gombrich, intitolato A.B. Warburg, una biografia intellettuale, pubblicato da Abscondita, 428 pagine, 39 euro, e tradotto da Alessandro Dallago e Pieraldo Rovatti. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Michele Previati, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.